Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Anno 1956. La rivista sportiva francese France Football istituisce un premio destinato a segnare la storia del calcio, il pallone d'oro. Un sogno luccicante, sferico come il pallone e come il mondo. Il pallone d'oro è il premio al miglior calciatore del pianeta. Fino al 1994 il riconoscimento era esclusivamente appannaggio dei calciatori europei. Poi un primo allargamento. Calciatori di tutte le nazionalità che però militano in Europa. Fino al 2006. Da quell'anno il premio non ha barriere. Dopo la fusione con il FIFA World Player, l'altro Oscar del pallone, il pallone d'oro premia il miglior giocatore al mondo. Punto. Senza distinzioni. Senza se e senza ma. Michel Platini, Marco Van Basten, Gianni Rivera, Roberto Baggio, Franz Beckenbauer. La lista dei grandi nomi che hanno alzato il trofeo inventato da France Football nel corso dei decenni è lunga e ricca di leggende. Negli ultimi 3 anni però la questione del più forte del mondo sembra essere diventata il regno personale di un unico grande fenomeno, l'argentino Lionel Messi. 2009, 2010 e 2011. 3 trionfi di seguito per la piccola pulce del Barcellona, 2 dei quali, il primo e il terzo, indiscutibili e meritatissimi. Sul fatto che Messi sia il più grande di tutti in questo momento ci sono ben pochi dubbi. Non tutti i suoi colleghi, però, sembrano disposti ad accettare serenamente la cosa come un dato di fatto. Uno, in particolare, sembra essersi promesso che da quel trono, prima o poi, riuscirà a scalzare Leo Messi. Il nostro primo personaggio di oggi è Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E ce fa du 53e Ballon d'Or. Il est là. Il est arrivé Cristiano Ronaldo. Buono, in primo luogo. Ho avuto dei problemi all'aeroporto e sono rimasto bloccato nel traffico, ma sono contento ora di essere qui e che mi abbiate aspettato. Sono veramente felice. Oggi realizzo un sogno che ho inseguito fin da quando ero bambino. Sono molto giovane, è già un traguardo importante, spero si possa ripetere in futuro. Queste parole risalgono al dicembre 2008. Cristiano ha 23 anni, il pallone d'oro è suo. Come dice lui stesso, è giovanissimo e sono tutti convinti che questa possa essere la prima tappa di un dominio inarrestabile. Non sarà così. Da numero uno in pochi mesi, Ronaldo diventa il numero due. L'eterno numero due dietro a Leo l'invincibile, con l'ossessione di riuscire a batterlo, di riuscire a dimostrare di essere come lui. Del resto, per arrivare dove è arrivato, Cristiano Ronaldo ha dovuto vincere altre sfide, forse altrettanto dure. Madeira, uno dei luoghi più suggestivi del Portogallo. È un arcipelago a quasi 600 km dalle coste africane, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, formato dall'isola che dà il nome a tutto l'arcipelago, Madeira appunto, dalla più piccola Porto Santo e da altre 3 isole disabitate. È un luogo incantevole, bellissimo, selvaggio e al tempo stesso moderno. La modernità è rappresentata dalla città di Funchal, il centro maggiore dell'isola di Madeira. Qui a Funchal nasce il 5 febbraio del 1985 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, questo il suo nome completo. Cristiano per la fede fortissima di sua madre Maria Dolores, professione cuoca. Ronaldo perché il padre, José Denis Aveiro, ha un attore preferito, l'allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Cristiano Ronaldo è l'ultimo di 4 fratelli. La maggiore è Elma, 11 anni più grande di lui. Poi c'è Ugo, classe 1975, e Liliana, del 1976. È una famiglia di origini molto modeste, la sua. Inoltre il padre è un po' troppo legato alla bottiglia e il piccolo Cristiano è costretto a vederlo spesso rincasare ubriaco. Fin da piccolo, però, Ronaldo inizia a tirare calci a un pallone tra le vie polverose di Madeira, in un campo incolto dietro casa sua, dove gioca e vince le prime sfide tra amici. Ho fatto i primi passi nel calcio nel club dilettante della mia città natale, si chiamava Andorinha, avevo circa 8 anni. Un paio d'anni dopo sono passato al CD Nacional, una delle squadre più famose di Madeira. Mi ricordo che il passaggio era avvenuto proprio intorno al mio 10° compleanno. Nei piccoli del CD Nacional rimane solo un anno. Poi a casa sua si presenta un emissario dello Sporting Lisbona. Il piccolo ha grande talento, spiega ai familiari. Può diventare qualcuno, vorremmo portarlo nella capitale. A voi la scelta. La modesta famiglia Aveiro non esita più di tanto. Se è vero quello che si dice di Cristiano, può essere la svolta della vita. Nessuno della famiglia però può spostarsi con lui. Cristiano ha solo 11 anni, ma deve già imparare a far conto solo su se stesso. Parte per Lisbona, solo, verso un mondo ignoto e completamente nuovo, nelle giovanili di uno dei club più importanti del paese. È stato un periodo duro. Non è mai facile lasciare la tua famiglia e vivere da solo a 11 anni. Eravamo molto seguiti dallo staff dello Sporting, che presto è diventato per me una seconda famiglia. Ma non è stato un periodo facile. Il temperamento di Cristiano viene fuori in questo periodo duro. Infatti, dopo qualche mese di spaesamento, anche fra i piccoli dello Sporting, Ronaldo inizia a emergere con grande forza. Così impiega solo 5 anni per fare tutta la trafila ed esordire in prima squadra tra i professionisti. Il 14 agosto del 2002, il 17enne Cristiano Ronaldo fa il suo esordio nello Sporting ed entra dalla porta principale, la Champions League. Vanno in scena i preliminari contro l'Inter. Al 13° del secondo tempo Ronaldo entra in campo e gioca una mezz'ora di alto livello tra dribbling e finte. Finisce 0-0 e al ritorno l'Inter vince 2-0 con Ronaldo in tribuna. È il primo grande battesimo, il secondo arriva in campionato. È il 7 ottobre del 2002, Ronaldo ha solo 17 anni. Avversario dello Sporting Lisbona è il Moirerense. Ora Tognit, ben giocato, Cristiano Ronaldo. Ainda ben giocato per Cristiano Ronaldo. Al 33° del primo tempo Ronaldo prende la palla a metà campo, accelera, salta un uomo, un secondo, un terzo e scarica in porta. Poi, come un professionista consumato, corre sotto la curva e lancia la maglia. Avversari e addetti ai lavori osservano sbigottiti. I compagni no, quei numeri li fa costantemente anche in allenamento. Pochi minuti dopo Ronaldo si ripete. Adjetivação necessária a un gol destes, porque é un golo incrível de Cristiano Ronaldo. Un grande golo deste jovem prodigio do Sporting. 2-0. Esordio con doppietta a 17 anni, non male. In quella stagione Cristiano totalizza 25 presenze, di cui 12 da titolare. Non segna molto, si ferma a quota 3. Su di lui però puntano gli occhi tutti i maggiori club europei. La Juventus, ad esempio, il Liverpool e l'Arsenal. Decidono però di aspettare. Nel 2003 Ronaldo ha solo 18 anni e sembra prematuro puntare su di lui. Che mi fa esitare? Nella stagione 2003-2004 avrei dovuto giocare per lo Sporting. Sarei stato tra i titolari anche perché ero maturato fisicamente ed ero considerato una delle grandi promesse del club. Sta di fatto che Ronaldo inizia la preparazione con lo Sporting, compresa la trafila delle amichevoli estive. Il 22 luglio del 2003 a Lisbona si inaugura lo stadio José de Avelade. Nel 2004 in Portogallo ci saranno gli europei di calcio e il nuovo impianto è il fiore all'occhiello della futura competizione continentale. Sarà anche il nuovo impianto dello Sporting Lisbona, così il team di casa decide di ospitare per un amichevole di lusso niente meno che il Manchester United, i Red Devils, una delle squadre più forti al mondo. Il Manchester è campione d'Inghilterra in carica, ma in realtà sta attraversando un momento molto delicato. Nella stagione appena conclusa c'è stata una bruciante eliminazione ai quarti di finale in Champions League contro il Real Madrid, carica di polemiche che hanno lasciato strascichi nello spogliatoio. Come se non bastasse, proprio il Real Madrid ha strappato ai Red Devils la grande stella, David Beckham. Con la maglia numero 7 vacante e il futuro sempre più incerto, sono arrivate a vacillare le sicurezze anche del nostro secondo personaggio di oggi, uno dei più grandi allenatori del mondo, Alex Ferguson. Alex Ferguson. Alex Ferguson è tra i più longevi manager del calcio contemporaneo. La sua carriera certo non sboccia quella sera. Anzi, quando Ferguson arriva allo stadio di Lisbona non ha assolutamente nulla da dimostrare. Ma proprio per questo le motivazioni sembrano in calo. Alcuni tabloid hanno addirittura parlato di ritiro. Quell'amichevole di certo non gli ha cambiato la carriera, ma gli ha permesso di trovare una nuova giovinezza. E gli ha permesso di cambiare per sempre la vita di Cristiano Ronaldo. Finisce 3-1 per i portoghesi. Migliore in campo, neanche a dirlo, Cristiano Ronaldo. Ferguson rimane ammirato dalle giocate di quel giovanotto un po' impertinente che quando parte in dribbling sembra inarrestabile. Si dice che sul pullman che riporta la squadra in albergo il vecchio Ferguson si sia consultato coi propri giocatori. Cosa ne pensate di questo Ronaldo? Avrebbe chiesto loro. La risposta più o meno unanime pare sia stata: «Mister, lo porti qui. Quello è un campione». Cristiano giocava alla destra, saltava l'uomo, dribblava, aveva un tiro micidiale. Certo, era molto giovane, però mi sembrava, pur con caratteristiche diverse, il giocatore adatto per rimpiazzare David Beckham. Nel calcio inglese gli allenatori vengono chiamati manager. Alex Ferguson ne è il prototipo. Non gestisce solo gli aspetti in campo, bensì anche quelli legati agli aspetti gestionali della squadra. Hanno insomma molto spesso molto più potere che in Italia. Il giorno dopo quell'amichevole Ferguson si muove, inizia a sondare il terreno per capire se l'operazione è fattibile. La trattativa con i portoghesi dello Sporting si rivela un po' più complicata del previsto. Sapevano di avere per le mani un talento enorme, per questo motivo non erano disposti a lasciarlo andare così facilmente. Chiesero una cifra molto alta, molto. Ma più passava il tempo e più avevo il sentore che quello era l'uomo su cui puntare. La trattativa dura quasi un mese. Si conclude il 12 agosto del 2003, quando Alex Ferguson dà l'annuncio dell'acquisto del bomber in conferenza stampa. Possiamo dire che è ufficiale il trasferimento di Cristiano Ronaldo da noi al Manchester United. Il giocatore raggiungerà i compagni già nella giornata di domani. Grazie a tutti. Ronaldo accetta di buon grado di trasferirsi in Inghilterra. Si concretizzano in un colpo solo molti dei suoi sogni. Può giocare per un top team, può affrontare la Premier League, uno dei campionati più affascinanti del mondo. Soprattutto può cambiare definitivamente le sorti della sua famiglia. Ero rimasto molto legato ai miei familiari. Per me un contratto di quel livello significava finalmente potermi far carico di tutta la mia famiglia e far qualcosa per loro, per cambiare definitivamente il loro tenore di vita. Le cifre del contratto in effetti sono molto importanti. Il Manchester paga 13 milioni di sterline, all'epoca il trasferimento più costoso di un under 20. Cristiano ha solo 18 anni. I giornalisti inglesi storcono il naso, trattandosi di un giocatore che ha ancora tutto da dimostrare. Alex Ferguson ha le idee chiare. Ronaldo cambierà il Manchester. Un episodio in particolare lo dimostra, come racconta lo stesso Ronaldo. Quando si trattò di scegliere il numero di maglia, io chiesi il numero 28, lo stesso che indossavo allo Sporting. Sapevo che la maglia numero 7 era libera, dopo l'addio di Beckham, ma mi sembrava una maglia con troppa storia addosso. Best, Cantona e David l'avevano indossata, era una cosa che mi intimoriva molto. Ferguson non volle sentire ragioni. Tu sei qui per prendere in mano la squadra, disse, e avrai il 7. E così fu. Quasi di colpo, con grande rapidità, nel giro di pochi anni, Cristiano Ronaldo si trova catapultato dal calcio di strada della sua Funchal all'Old Trafford, il teatro dei sogni, il tempio dei Red Devils, con la casacca più pesante sulle spalle, pronto per il grande esordio. Pronto per regalare alla sua nuova squadra e al grande Alex Ferguson il periodo più felice della loro storia calcistica. Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Cristiano Ronaldo, 5 volte sul podio del Pallone d'Oro negli ultimi 6 anni. La sua carriera sboccia con la rapidità dei predestinati quando ha solo 18 anni. Il talento immenso di questo giovane funambolo portoghese viene scoperto grazie allo straordinario intuito di uno dei più acuti e autentici uomini di calcio degli ultimi anni, Sir Alex Ferguson, un allenatore scozzese la cui carriera sulla panchina del Manchester United fa letteralmente impressione. Alexander Chapman Ferguson, un uomo arcigno e ruvido ma di principi solidissimi. Le sue origini lo segnano nel profondo. Ferguson nasce il 31 dicembre 1941 a Govan, sobborgo di Glasgow. È la zona del cantiere navale. E la sua, infatti, è una famiglia operaia che da generazioni fornisce robusti manovali ai costruttori di navi. Il padre si chiama Alexander Beaton Ferguson ed è protestante, ex calciatore di livello medio-basso. La madre Elizabeth è cattolica. C'è anche un fratello di nome Marin, più piccolo di un anno. L'estrazione sociale è molto modesta, la famiglia Ferguson si fa in quattro per far studiare i figli, ma Alex non ne vuole sapere. Pluribocciato anche alle elementari, lascia gli studi e segue il padre come apprendista in cantiere. La mia famiglia mi ha comunque sempre incentivato a studiare, con grande ostinazione, anche quando i risultati non arrivavano. Così, dopo qualche tempo, ripresi anche a studiare. Lavoravo in cantiere, studiavo e contemporaneamente giocavo a calcio, ad un buon livello, e la cosa cominciava ad impegnarmi veramente. Fu un periodo molto denso di impegni, insomma. Con un po' di ritardo, ma Ferguson arriva al diploma nel 1964 a 23 anni. Una grinta e una voglia di arrivare all'obiettivo che rimarranno sue prerogative anche da manager e che lo contraddistinguono anche nella sua carriera da calciatore. Ferguson non è dotato di un talento abbondante. È però un attaccante che non si arrende mai e per questo segna gol a grappoli, prima nel Dunfermline e poi nei Rangers Glasgow. Gioca fino al 1974, la sua ultima stagione, nell'Ayr United. Poi il ritiro e l'inizio della vita da manager. Credo che la gavetta sia importante per ogni professionista. Partire dal basso, vedere e sperimentare direttamente le difficoltà di chi è meno fortunato. Sono cose che ti segnano e ti permettono di avere una percezione del mondo più solida. La gavetta di Ferguson allenatore inizia all'East Stirlingshire, una scalcinata squadra delle serie minori del campionato scozzese. Il team non dispone nemmeno di un portiere di ruolo, tanto che un difensore tutto sommato decoroso tra i pali viene fatto giocare come estremo difensore. Ferguson guadagna 40 sterline a settimana, il lavoro è part-time. L'allenatore scozzese lo affronta però con una professionalità e una serietà incredibili, mettendo subito regole ferree che trasformano il clima dopolavoristico della squadra in un ambiente rigoroso e dalla mentalità vincente. Bobby McCulley, attaccante di quella squadra, ricorderà così anni dopo Alex Ferguson. Non ero solito aver paura di nessuno, ma devo dire che Ferguson era davvero un gran bastardo sin dall'inizio. Era giovane, ma incuteva timore e tutti lo rispettavano. Il polso con cui Ferguson gestisce la sua squadra non sfugge a team di livello più alto. Così, dopo soli 117 giorni sulla panchina dell'East Stirlingshire, Ferguson viene ingaggiato dal St Mirren, che nel 1974 milita nella Serie B scozzese. È un team in decadenza. Non più di 1000 spettatori seguono i match allo stadio. L'obiettivo è costantemente la salvezza. Alex Ferguson rivolta alla società dall'interno. Fu un'esperienza fantastica. Il St Mirren era in caduta libera e il presidente mi diede subito pieni poteri. Iniziai una riorganizzazione generale del team a partire dal settore giovanile per arrivare agli aspetti apparentemente più insignificanti, come le divise, il rapporto con i tifosi, i gadget della squadra. Nel giro di 4 anni, il miracolo. Prima la Serie A, poi il terzo posto. Tutto grazie ad una parola: organizzazione. La carriera di Ferguson da qui decolla letteralmente. Il St Mirren, per circostanze mai del tutto chiarite, lo esonera. È l'unico licenziamento nella carriera di Ferguson che passa sulla panchina dell'Aberdeen, top team scozzese. Inizia qui un ciclo vittorioso. Nel 1980 vince il campionato superando il Celtic di un punto. Nel 1982 conquista la Coppa di Scozia battendo in finale i Rangers per 4-1. L'anno successivo vince la Coppa di Scozia, ma soprattutto la Coppa delle Coppe, battendo 2-1 il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueño, e la Supercoppa Europea, battendo l'Amburgo. Nel 1984 arriva la doppietta, campionato Coppa Nazionale, e l'anno successivo l'ultimo titolo scozzese. Contemporaneamente accetta l'incarico di commissario tecnico della nazionale scozzese, che ricopre dal 16 ottobre 1985 al giugno del 1986, partecipando anche ai mondiali messicani e uscendo però al primo turno. Nel novembre 1986, infine, dopo l'addio all'Aberdeen, arriva l'ingaggio al Manchester United, team glorioso ma completamente da ricostruire. L'incarico adatto per Mr. Alex Ferguson. Mai nessuno saprà separarlo da me. Ogni giorno saprò con lui restare. È buono per me, sicuro di sé. La lunga stagione di Alex Ferguson sulla panchina dello United, non ancora conclusa, può essere divisa in varie fasi. Diciamo che c'è una prima lunga ascesa che inizia quando Sir Alex accetta l'incarico e, passando per numerosi successi in patria e per campioni come Eric Cantona e Ryan Giggs, giunge fino al tetto d'Europa nel 1999, grazie all'estro e alle geometrie di David Beckham e soprattutto a una dose incredibile di fortuna nella finale contro il Bayern Monaco. È l'anno del triplete, campionato, Coppa Nazionale, Champions League. Segue anche il Mondiale per club, mentre la Supercoppa viene persa contro la Lazio. Poi, progressivamente, il team perde brillantezza. Mentre in patria il divario con gli altri team è troppo ampio e consente ai Red Devils di rimanere saldamente al comando, in Europa il Manchester ritorna ad arrancare. Nel 2003, inoltre, Beckham lascia il team. È l'anno in cui Ferguson si inventa l'acquisto determinante. Cristiano Ronaldo. What about this? Half an hour to go. Hold on to your hats. It is the debut. The man who only signed three days ago, the 18-year-old Cristiano Ronaldo, is coming on for Nicky Butt. 16 agosto 2003, Premier League, prima giornata. Ronaldo è a Manchester da due giorni. Al 60esimo, con i Red Devils in vantaggio per 1-0, Ferguson lancia in campo Cristiano. Sulle spalle la maglia numero 7 di Beckham e prima di Best e Cantona. I tifosi lo osservano con qualche diffidenza. Cristiano ci mette qualche minuto a convincere tutti. To Ronaldo. Here he goes. Look at this. Nella mente e negli occhi di tutti i tifosi del team inglese, probabilmente quella mezz'ora è rimasta ben scolpita. Assistono a uno spettacolo quasi surreale. La giovane ala, schierata a sinistra, che fino a qualche giorno prima era a Lisbona, dribbla, corre, lotta, salta gli uomini come birilli, sembra inarrestabile. Apre in due la difesa del Bolton, affronta con sfrontatezza quasi irriverente i difensori avversari, arringa il pubblico dell'Old Trafford con la confidenza di un veterano. Il Manchester vince 4-0. I suoi tifosi capiscono che quello che hanno appena visto è l'inizio di un capitolo meraviglioso. Here is Ronaldo again. Ferguson gongola a fine partita. Si gode il suo gioiello e gli altri giovani che ha innestato nel team. Nomi come Wayne Rooney e Rio Ferdinand, per intenderci. Cristiano in breve diventa la star, il trascinatore, l'uomo chiave. Quell'anno gettammo le basi per costruire un ciclo di vittorie straordinario. Ma non fu un percorso semplice ed immediato. Per tre anni non vincemmo praticamente nulla, se non una FA Cup nel 2004. Poi più nulla fino al 2007. Quello fu l'anno della piena maturazione di Cristiano, l'anno in cui i suoi funambulismi divennero decisivi. Vedete, per me è stato come vincere una scommessa. Avevo portato Cristiano Ronaldo a Manchester a soli 18 anni, spendendo una somma enorme, e non avevamo ancora vinto. Sapevo che sarebbe esploso, ma i mesi passavano e i giornali dicevano: il ciclo di Ferguson è ormai finito. Il tempo mi ha dato ragione. Stagione 2006-2007. Il Manchester di Cristiano Ronaldo vince il campionato con 6 punti di vantaggio sul Chelsea di José Mourinho. Lo stesso Chelsea soffia in finale la FA Cup ai Red Devils. È l'inizio di una rivalità storica che vede i due team contendersi tutto, e non solo in Inghilterra. In quella stagione il Manchester è indiscutibilmente anche la squadra meglio attrezzata in Europa. In semifinale i Red Devils affrontano il Milan allenato da Carlo Ancelotti. Alla prima in casa, il Manchester vince 3-2. Al ritorno a San Siro, i rossoneri giocano una gara superba. Ronaldo va a sbattere contro la difesa del Milan. Gioca una gara nervosa, sempre anticipato da Alessandro Nesta. Il Milan dilaga, vince 3-0, va in finale e si aggiudica il titolo. L'appuntamento con l'Europa, per i diavoli rossi, è rimandato di un anno. Tra poco, a destini incrociati. Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Alex Ferguson e Cristiano Ronaldo. Il primo è lo storico manager del Manchester United. Ronaldo è il talento portoghese scoperto proprio da Ferguson nel 2003. Il loro Manchester nel 2008 arriva ad essere una corazzata impressionante, pronto a dominare in Inghilterra e in Europa. Il sodalizio tra manager e giocatore è solidissimo, nonostante siano per molti aspetti persone completamente agli antipodi. Ferguson è un uomo terribilmente concreto, forte, solido, ma anche umano e attento ai principi fondamentali della vita. È fra i pochi uomini di calcio a interessarsi apertamente di politica, esplicitamente schierato a sinistra per il Labour Party. Non ha mai fatto mistero, infatti, Ferguson di non avere mai dimenticato le sue origini operaie e di volere sempre prestare grande attenzione ai diritti e alle condizioni di chi è stato meno fortunato di lui. Ronaldo è nel mondo del calcio l'opposto. Nel tempo, infatti, il talento portoghese è diventato una vera e propria icona pop. Amato dalle ragazze di tutto il mondo, oggetto di gossip e pettegolezzi, obiettivo di paparazzi e cronache rosa, protagonista di rocambolesche e avventurose storie d'amore con modelle e donne famose, Ronaldo sembra spesso incarnare lo stereotipo del calciatore bello, ricco e impertinente che vive al massimo la sua vita di privilegi. Tuttavia, gli va riconosciuta una professionalità fuori dal comune. Nonostante questi aspetti folcloristici, infatti, Cristiano riesce sempre a separare la sua presenza nel jet set dall'ambito lavorativo, allenandosi sempre con grandissima serietà. Io e Ferguson siamo diversi, è vero, ma per me è come un padre. Io ho perso mio padre nel 2005, in seguito a problemi al fegato dovuti al suo rapporto con l'alcol. È stato un fatto tragico per me e mi ha spinto a riconsiderare molti aspetti della mia vita. In quel momento Sir Alex mi è stato molto vicino, per me parlare con lui è fondamentale. Tutto quello che sono oggi lo devo a lui. E molto di quello che Ferguson vince nella stagione 2007-2008 lo deve a Ronaldo. La stagione inizia con un trionfo ai rigori nella Supercoppa d'Inghilterra contro il Chelsea di José Mourinho. But Edwin van der Sar stands even taller. Poi il trionfale cammino in campionato che Ronaldo puntella con ben 38 gol. Soprattutto però i Red Devils sembrano inarrestabili in Champions League. Vincono infatti il loro girone a punteggio pieno. Agli ottavi fanno fuori il Lione, ai quarti di finale infliggono una lezione memorabile alla Roma, vincendo la gara di ritorno per 7-1. In semifinale viene eliminato il Barcellona di Ronaldinho, Messi ed Eto'o, l'ultimo prima dell'era Guardiola. Il 21 maggio a Mosca va in scena la finale, tutta inglese, di fronte i rivali del Chelsea. La squadra londinese ha licenziato da qualche mese José Mourinho. Sulla panchina siede il traghettatore Avram Grant, che è riuscito in quello che al tecnico portoghese era sempre sfuggito, raggiungere la finale di Champions League. Sarebbe il terzo trofeo della stagione per i Red Devils. Secondo palo, Ronaldo, rete! Ronaldo! Esattamente al 26esimo, il Manchester è in vantaggio. Cristiano Ronaldo, l'uomo più atteso, l'imminente pallone d'oro, l'uomo che viene indicato come in questo momento il giocatore più forte del mondo, è riuscito a sfruttare questa assistenza magistrale di West Brown dalla corsia di destra. Dopo pochi minuti il Manchester va in vantaggio. È proprio lui, Ronaldo, che gira di testa in rete un preciso cross dalla fascia. La partita è brutta, nervosa, fallosa. Ronaldo ha segnato ma non brilla, è teso. Il Chelsea poco dopo pareggia. Alimenta il tema offensivo per i suoi, Essien destro deviato, il pallone lì, Lampard, rete, pareggio del Chelsea, Lampard al 45esimo sfrutta un rimpallo favorevole e mette il pallone alle spalle di Van der Sar. Il risultato rimane bloccato sull'1-1 per 120 minuti. Dopo essersele date di santa ragione, le due squadre vanno ai calci di rigore. A Cristiano Ronaldo tocca il terzo rigore per la sua squadra. La rincorsa di Cristiano Ronaldo, parte il tiro, si ferma Ronaldo, riprende la corsa, parata! Parata di Cech, ha sbagliato Cristiano Ronaldo! Si fa parare il rigore da Peter Cech. Per il giovane astro portoghese è un dramma, anche perché il Chelsea non sbaglia più. Sul piede del capitano John Terry capita il rigore decisivo, quello che porterebbe a Londra la Coppa. La tensione è alle stelle. Ronaldo a centrocampo osserva la scena con aria profondamente sgomenta. John Terry prende una rincorsa piuttosto breve. Lo stadio ammutolisce mentre i giocatori delle due squadre sono paralizzati dalla tensione. Quello che succede ha dell'incredibile. Ma è proprio in questo momento che i giocatori diventano campioni, che i giocatori normali dimostrano di essere dei fuoriclasse quando riescono a mantenere freddezza nel momento più caldo della carriera, in un momento rovente. La rincorsa, Terry, tiro, fuori! Fuori! Clamoroso! Il match ball sui piedi di John Terry, il pallone fuori, ed ora ci sarà un'altra serie di calci di rigore. Terry parte, arriva a calciare, ma il suo piede sinistro, il piede d'appoggio al momento del calcio, scivola sull'erba umida. Terry perde l'equilibrio e calcia il rigore metri fuori dalla porta. Le telecamere vanno subito a pescare Ronaldo. Se quella palla fosse entrata, il suo errore dal dischetto sarebbe stato decisivo. Così non è. Lo United torna in gara. Due rigori dopo, a nel Capri il Chelsea sbaglia. È finita. Il Manchester United è campione d'Europa. Ronaldo e Ferguson si abbracciano. Missione compiuta. Il ciclo dello United prosegue nei mesi successivi. Arrivano FA Cup, Mondiale per Club, un'altra Supercoppa inglese. Cristiano Ronaldo è considerato il più forte di tutti, vince il suo primo e per il momento unico pallone d'oro. E se fa du 53e ballon d'or. Il est là, il est arrivé Cristiano Ronaldo. Il Manchester raggiunge la finale di Champions per il secondo anno di seguito, ma qui qualcosa cambia. A Roma, contro i Red Devils, c'è il Barcellona, che ha Guardiola in panchina e il nuovo Maradona in campo, la Pulce, Leo Messi. Il Barça asfalta lo United dominando il match. Ronaldo capisce che quel piccolo argentino è un fenomeno e che d'ora in avanti per lui sarà veramente dura. La storia di un rapporto quasi da padre-figlio tra Ferguson e Ronaldo ha una fine. Un finale molto classico per il mondo del calcio. Il Real Madrid offre in estate 90 milioni di euro per il talento portoghese, una cifra mai vista. Ferguson cede e Cristiano vola in Spagna, come Beckham prima di lui, diventando il leader del Real Madrid. Un leader con qualche complesso psicologico. Quando il Real affronta il Barça, quando Cristiano affronta direttamente il suo rivale Messi, qualcosa si inceppa, sparisce dal campo, non è mai decisivo e il Barcellona spazza via lui e il suo Real. Così, da 3 anni. 3 anni durante i quali, nonostante questo, a Madrid hanno fatto addirittura una statua a Ronaldo in pieno centro, alta 10 metri. Cristiano non dimentica però Sir Alex, l'uomo che lo ha lanciato. Anche adesso ogni tanto mi mancano le chiacchierate con Alex Ferguson. È stata la persona più importante della mia vita e secondo me è senza dubbio il miglior tecnico al mondo. Sono in molti a pensare questo del grande Alex Ferguson. I like a new Lincoln with all of its class. I like a martini and bird on the glass. I'm gonna start living, you wait and see. Nothing but the best is good enough for me. I like to eat lobster.